140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie e il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Teatro Gerolamo, Milano. Il 40° album di Gianni Morandi si intitola D'amore d'autore, canzoni che parlano di sentimenti, scritte per lui da grandi autori. Intanto io ho sempre cantato l'amore, ho inciso più di 600 canzoni, quindi l'amore, quasi tutte parlano d'amore. E poi se non si canta d'amore, di che cosa si canta, dai? E volevo cantare anche degli autori che non ho mai frequentato, autori che non hanno mai scritto per me, anche diversi fra loro, anche particolari, come Levante, per esempio, Ligabue naturalmente, Giuliano, anche tutti gli altri hanno scritto grandi canzoni. Volevo avere anche un nuovo repertorio da cantare nei miei prossimi spettacoli, perché cantare sempre lo stesso repertorio, vabbè, è divertente lo stesso stare in mezzo alla gente, però dai, per andare avanti, per essere vivi, contemporanei, anche contemporanei si fa per dire, insomma. No, tu sei più che contemporaneo, sei il più moderno di tutti. Però quando ti affidi ad altri autori che parlano di temi importanti, insomma, devi un po' abbracciare le loro parole. Ad esempio, mi chiedo se tu sei d'accordo con Fossati quando ti fa cantare che le donne vogliono esagerare. A Fossati ho chiesto una canzone e lui l'ha scritta pensando che l'avrei cantata io e che forse avrei potuto condividere le parole. Lui l'ha immaginata così, ma io sono d'accordo con lui. Quando tu incontri, perché l'amore ti arriva all'improvviso, no? Allora tu devi essere preparato, ma devi essere preparato anche psicologicamente. Gli dice a un certo momento: lei ha capacità di capire i tuoi errori, ma non glieli dire tutti in una volta. Non gli parlare di calcio, non gli parlare di politica. Le donne vogliono altre cose, vogliono parlare di cose che non conoscono, vogliono andare in Vespa da Milano a Pechino, vogliono volare su un ultraleggero. Quindi è un suo modo anche di insegnarti come ci si deve comportare in amore. L'ho trovata molto particolare questa canzone. Poi l'ho chiamato e gli ho detto: oh, spero di cantarla come la canti tu. Quindi lui ha detto: no, la farai benissimo questa canzone. Invece ho fatto un po' fatica a entrarci dentro. Hai fatto persino nevicare, come la neve che scende ricopre le strade. Per la canzone di San Giorgi tu hai fatto nevicare, hai fatto il video a casa con la neve. Ma sì, due giorni fa più improvvisamente. Allora, il giorno prima c'erano 22-23 gradi a Bologna. Il giorno dopo mi sveglio, comincia a nevicare. Sono rimasto talmente sorpreso, chiamo Anna, vieni subito a fare un video con la neve. Con la neve. Devo dire che tu sai stupirmi, corrisponde come alla canzone di San Giorgi che dice: tu mi sorprendi come la neve che cade. Insomma, è bello. Dobbiamo fare luce su cosa siamo noi. Magari siamo ancora in prova. Luciano Ligabue in Dobbiamo fare luce ti scrive: dobbiamo fare luce su cosa siamo noi, magari siamo ancora in prova. Anche tu hai la sensazione ogni tanto di dire: forse la vita vera deve ancora cominciare, stiamo ancora provando? Ma io ogni volta poi che esce un progetto nuovo sei sempre in prova, sei sempre davanti a un esame, aspettarsi i commenti della gente e sperare che siano buoni, anche in amore. Non bisogna mai mollare, perché siamo sempre lì in prova. Ed è questo il bello, tenere vivo un sentimento reinventandosi magari, non essendo sempre uguali, cercando di sorprendere, però siamo in prova. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Gianni Morandi. L'appuntamento con 140 caratteri è ogni sabato alle 15. Noi ci ritroviamo tra un'ora con RadioTube.